got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che ogni settimana vi porta a conoscere una persona che ha radici altrove ma radici anche in Italia. Parliamo di identità e di migrazione con i nostri ospiti. Questa sera abbiamo il piacere di avere Shadi Amadi, buonasera. Buonasera. Scrittore, attivista, di mamma italiana e papà siriano. Shadi vive a Milano, ha pubblicato da poco un libro, Esilio dalla Siria, una lotta contro l'indifferenza, di ADD Editore. Precedentemente ti avevamo avuto Shadi come ospite dopo il successo dell'altro tuo libro La felicità araba. Shadi, so che ci hai portato dei piatti per questa cena a Radio 24 alla quale sei stato invitato, immagino che parlino anche di questo, della tua identità. Sì, io vi ho portato un piatto di shakrie e uno di pasta. Quello di shakrie è un piatto che mi ha fatto mia zia quando ero in Libano poco tempo fa, ed è un piatto particolare che si cucina nelle montagne da dove c'è il villaggio nativo di mio padre, ma anche in altre località della Siria. È fatto con carne e yogurt e riso, e l'altro invece è la pasta, perché riflette un po' l'italianità e anche le origini, quelle della mia nascita e del crescere. Tu sei cresciuto in Italia, in questa famiglia dove si sono uniti in maniera anche naturale, no? Queste due identità forti, quella della tua mamma italiana, cristiana, e del tuo papà siriano, musulmano, quindi una identità araba e una identità occidentale, che hanno convissuto un po' come in Siria per molti anni hanno convissuto molte confessioni, no? E a un certo punto ti sei reso conto, andando in Siria a 12 anni, che c'era anche un'altra parte della tua vita, delle tue radici. Sì, diciamo che io lo scontro di civiltà non l'ho mai vissuto nella mia famiglia. Siamo, come hai ricordato, sono nato da mamma italiana cristiana e papà musulmano. Insieme celebravamo il Natale, il Ramadan, uno faceva il digiuno, l'altro no. E poi, andando in Siria, ho riscoperto sì le mie origini, ma anche la storia del perché mio padre ha lasciato la Siria andando in Italia. Quindi queste origini mi hanno fatto anche porre delle domande, perché il mondo intorno a me, quello che scoprivo, ma anche quello che c'è qua in Italia, è diviso. Quindi il messaggio che volevo lanciare invece è un messaggio di unità nella differenza delle identità. Tuo papà è arrivato nel 78 in Italia, in Toscana. Perché è andato via dalla Siria? È andato via dalla Siria perché è stato torturato, insieme a lui un'intera generazione, quella degli anni 40, 50, forse quella più colta della Siria, che ancora oggi c'è questo stereotipo del siriano colto di una certa età che fa il medico qua in Italia. Ecco, sono andati via lui insieme a loro per appunto queste torture, la repressione spietata che è stata fatta dai regimi che si sono susseguiti fino al 70, in cui è arrivato al potere Hafez al-Assad, e oggi abbiamo il figlio Bashar al-Assad. Qual è la specificità della Siria rispetto agli altri stati arabi che hanno vissuto le primavere arabe? La cosa differente tra la Siria e gli altri paesi arabi è proprio la fragilità e la ricchezza della società siriana, nel senso confessionale, quindi questi mille colori che si intrecciano, cristiani, musulmani, sciiti e sunniti, dentro questo tessuto sociale che oggi rappresenta appunto sì ricchezza e fragilità. Nello stesso tempo la Siria ci parla di qualcosa di drammatico, 500.000 di morti, più di 11 milioni di sfollati interni e esterni, e ci pone anche a delle domande a cui noi in Italia dovremmo rispondere, cioè la nostra identità. Perché noi diciamo e ricordiamo nelle manifestazioni il 25 aprile libertà, dignità, uguaglianza, e poi respingiamo ai confini proprio quei siriani che scappano dalla guerra? E quindi dovremmo trovare delle risposte, forse queste risposte si trovano nei crateri della repressione che viene compiuta quotidianamente ad Aleppo e nelle altre città. Leggendo il tuo libro c'è alla fine una cronologia che dà proprio anche il senso degli eventi, di come purtroppo questi eventi si sono succeduti e sono stati sempre più tragici fino ad arrivare alla situazione attuale. Uno di questi, lo voglio ricordare, è accaduto nel marzo 2011, proprio all'inizio di quella primavera araba sulla quale noi occidentali avevamo molto contato anche per la Siria, no? Ad Ara diversi bambini vengono incarcerati dai servizi di sicurezza siriani perché avevano scritto su un muro della classe: il popolo vuole la caduta del regime. E così sono iniziate le manifestazioni, la repressione. Alcuni ragazzi molto giovani, dei bambini quasi, come Hamza Ali al-Khatib, che aveva 13 anni, vengono arrestati, torturati. E insomma, una rivoluzione e poi una repressione sulla pelle dei bambini, dei ragazzi. Anche alcuni tuoi parenti, perché uno dei tuoi cugini, no, purtroppo, a cui tu dedichi il libro, ha avuto una fine simile. Sì, ed è giusto ricordare questi ragazzi, perché io sento che manca una concezione della storia, cioè non contestualizziamo mai gli avvenimenti della Siria, si parla solo dell'ISIS, ma prima dell'ISIS e oltre l'ISIS c'è qualcos'altro, c'è il popolo siriano. La Siria non è a sud di Kobane, ma Kobane è un villaggio della Siria che si chiamava Ain al-Arab, prima appunto dell'avvento dei curdi, e quindi ricordare anche questi ragazzi come Hamza al-Khatib o i bambini di Dera o anche mio cugino Mustafa, di cui il corpo non c'è mai stato ridato, non ci verrà mai ridato. Pensate, per sua mamma che ha partorito, tenuto nel grembo questo giovane, morto a 33-34 anni in un carcere e buttato, gettato come un sacco in qualche fossa comune, Dio sa solo dove, che cosa rappresenta. E quindi questa ricordare i volti, uscire da quel conteggio asettico, sono morte 100 persone, ma dare dei nomi ci aiuta a riscoprire chi sono le vittime e chi sono i carnefici. È dedicato il libro a tuo cugino Mustafa e a tua nonna. Qual è il ruolo nella tua vita di questa nonna? È il ruolo di una sconosciuta, perché mio padre è stato lontano da lei 35 anni e poi anche oggi non la vede da più di 10 anni, 15 forse. Quindi in qualche maniera per me rappresenta il avvicinarsi verso quelle che sono le mie origini, è qualcosa di simbolico, 95 anni questa arzilla donna. E quindi come la conosco anche? La conosco tramite i video che mi mandano via WhatsApp. Io conosco mia nonna grazie a WhatsApp, lei non sa di essere filmata, ma mi mandano i suoi video. E questo rappresenta anche il metro dell'esilio, cioè la negazione dell'affetto. Cioè io non posso andare lì a baciare mia nonna o, non so, stare seduto con lei sul divano, perché è oppositore di qualcosa, oppositore di un regime, nell'indifferenza chiaramente mondiale, e questa condizione è vissuta oggi da milioni di siriani a cui è vietato il ritorno alle loro case o il ricongiungimento delle loro famiglie. Quindi mia nonna in qualche maniera rappresenta un simbolo per me e poi per tanti altri giovani che hanno tante nonne e mamme in giro per il mondo. È straziante il racconto che tu fai di questi video su WhatsApp che ricevi, dove tua nonna viene filmata, quindi tu la puoi vedere, la conosci, ma lei in questo video a un certo punto dice: Shadi, ma chi è Shadi? Esatto, dice così chi è, e c'è il vicino di casa, perché purtroppo molti dei miei familiari hanno dovuto lasciare la città in quel momento, e quindi ci sono alcuni e poi altri parenti che compiono un viaggio molto, molto duro, perché di fronte hanno checkpoint nella strada che li conduce da casa loro a quella di mia nonna, non sai mai quello che succede. E così questo ricordo mi è rimasto impresso, ma come mi è rimasto impresso la prima volta in cui l'ho vista: busso alla porta, lei apre, guarda, chiude subito la porta e pensa che sono un ladro, interviene mio cugino, dice: questo è il figlio di tuo figlio, tuo nipote. E davanti a me io ho una sconosciuta come lei ha uno sconosciuto, e questa è la negazione di tutto quello che noi dovremmo raccontare, questo esilio dei sentimenti e dell'amore. una piccola pausa e torniamo a parlare con Shadi Amadi tra pochissimo. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Dall'8 al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Siamo con Shadi Amadi questa sera, scrittore, attivista per la causa siriana, lui stesso di padre siriano, italiano di padre siriano, che ha pubblicato questo libro, Esilio dalla Siria, una lotta contro l'indifferenza. Shadi, parlavi proprio di questa condizione dell'essere in esilio, no? Una condizione che ridefinisce in fondo l'identità della persona. Tu sei stato in Siria la prima volta a 12 anni, poi sei tornato, poi sei stato a Beirut. Queste tue identità, hai mai pensato di dover scegliere se essere siriano o italiano, musulmano o cristiano? E di questo libro arriva come secondo passo di una trilogia che sto scrivendo per la Siria, e questo libro, a differenza dell'altro, La felicità araba, che rappresenta un po' il passato, rappresenta invece le domande che mi sono posto, cioè mi sento più italiano o più siriano? Ecco, una risposta vera non esiste, perché tutte e due queste anime convivono in me, ma tutte e due queste anime mi fanno provare una gran rabbia quando devo parlare da siriano per un popolo che è assente dal tavolo della storia, perché è circondato dall'indifferenza. E allora vedo i miei coetanei, quegli italiani con cui io sono cresciuto, anche il nostro paese come altri, che hanno una totale indifferenza verso questioni che poi hanno ripercussioni su di noi. E da siriano, quando invece mi affaccio al contesto siriano, trovo altre contraddizioni fatte dai siriani, queste elite che hanno venduto il paese sul tavolo del miglior offerente, e quindi devo farle convivere per ottenere sempre un ragionamento che possa essere conciliatore e mediatore. Devo essere per forza un ponte tra queste due realtà, quella occidentale e quella orientale, che non si devono scontrare ma incontrare. Qual è, secondo te, ed è veramente la domanda che probabilmente tutti si pongono, il futuro per la Siria? Qual è una soluzione per il conflitto? Ecco, dobbiamo lavorare in questo momento per una de-escalation del conflitto militare, cioè almeno vietare alla Russia e al governo siriano, in più io direi anche agli Stati Uniti o altri paesi europei coinvolti in Siria, di bombardare le città con l'aviazione, perché i bombardamenti non colpiscono solo i terroristi, ma colpiscono i civili, ammesso poi che davvero, come la Russia, voglia colpire il califfato, ma a me sembra logico, chiaro, evidente che stia colpendo i civili e le forze autoctone siriane dell'opposizione ad Aleppo, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione, altrimenti avremo un esodo nei prossimi due mesi di altre centinaia di migliaia di siriani al di fuori del paese. Dobbiamo anche porci le giuste domande di quello che avviene in Siria, e non è soltanto chi finanzia l'ISIS, ma è che cosa ha creato l'ISIS, quali eventi l'hanno creato, che cosa spinge giovani europei a partire per andare a combattere. Se non risolviamo queste domande, si ripresenterà qualcos'altro differente dall'ISIS e noi saremo ancora qua tra 20 anni a combattere le stesse cose. E ultima domanda da porsi è: qual è il legame tra il fondamentalismo e questi regimi arabi che hanno governato per 50 anni? Io credo che ci sia un legame profondo e non dobbiamo scendere a patti con regimi perché li consideriamo male minori. questi foreign fighters che tu citavi, anche la decisione di queste persone, magari cresciute in Europa, in Belgio, in Francia, invece che in Italia, di tornare nei paesi che a volte non conoscono neppure, perché magari sono i paesi di origine dei genitori, è legata alla domanda intorno all'identità, no? Per definirsi come identità a volte si cerca qualcosa e si possono incontrare, ad esempio su internet, delle identità precostituite. Vorrei dire che io capisco molto bene, senza condividere, le dinamiche che spingono questi giovani a andare a combattere con il califfato piuttosto che con altre formazioni, perché io ho la stessa loro biografia in qualche maniera. Sono figlio di questa Europa, ma anche figlio di un padre musulmano, quindi arabo, e ho capito bene, nascendo e crescendo in questa società, alcune questioni che ruotano intorno alle domande appunto che ci dobbiamo porre: che cosa spinge questi giovani. Non penso che sia, come ha detto Olivier Roy, il nichilismo nella nostra società, ma c'è un malessere che sta covando all'interno della prima generazione nata qua in Europa. Questo malessere è l'assedio alla loro identità, cioè c'è come un rigetto da parte di una certa parte della società e da una certa parte anche della sfera mediatica, che continua a pressare e a spingere questa idea che l'Islam produca soltanto violenza e le peggior cose. E allora questi giovani che hanno questo conflitto loro interno tra la loro parte europea e la loro parte anche musulmana, e che provano una naturale empatia verso i paesi dei loro genitori, come io provo un'empatia per quello che avviene in Siria, sono schiacciati da queste dinamiche. Quindi un giovane nato in Francia o in Italia non può essere indifferente, come la maggior parte dei suoi coetanei che sono soltanto italiani nella loro identità, a quello che avviene in Medio Oriente, e questo crea delle fragilità. Qual è il nodo, la differenza che scatta nella persona, secondo te, che ha una tua stessa biografia, nel partire o non partire? Conta l'emarginazione sociale che uno ha avuto, e anche i genitori e l'ambiente dove queste persone sono cresciute. Se noi vediamo tutti questi ragazzi, da quelli che hanno fatto a Bruxelles o a Parigi gli attentati, erano tutti in qualche maniera marginalizzati nella loro società, spacciavano, bevevano whisky, poi a un certo punto, quando hanno raggiunto l'apice del loro fallimento nella società, io sto parlando dei ragazzi che hanno genitori arabi, non dei convertiti, convertiti è un'altra storia, hanno incontrato qualcuno che gli ha prospettato di mettersi in riga, di dargli una verità, la verità di un Islam in qualche maniera che li conduce su una strada giusta, che li libera da qualsiasi preoccupazione. Questo loro hanno scelto, rinnegando tutto quello che loro hanno fatto nel passato, e questi predicatori dell'odio, che hanno avuto una facilità di manipolazione, li hanno spinti ad andare in Siria e in altri paesi. In Italia ci sono contesti simili in cui possono trovarsi a crescere pulsioni di questo tipo? È evidente che ci sono contesti di questo genere, infatti serve una prevenzione. Io credo che questi contesti sono davvero la minoranza esigua, però serve appunto una prevenzione, una consapevolezza che io sto vedendo che la comunità musulmana in Italia fa, ma dall'altro campo anche serve, diciamo, una rivalsa mediatica, nel senso, bisogna parlare di dialogo di più in televisione, in radio e negli altri canali, per evitare appunto che si creino irrigidimenti anche intorno alla religione. Ho letto sempre dal tuo libro che la cosa che ti preoccupa di più di un futuro di pace in Siria è quello del fatto che il paese della sua confessionalizzazione, no? Del fatto che ora rispetto a prima della guerra, forse, se capisco bene, c'è un fondamentalismo strisciante molto più forte? Certo, perché oggi sono saliti a galla molti problemi che erano in qualche maniera celati, perché poi da 40 anni a questa parte c'è stata una settarizzazione del paese, indotta appunto dal governo siriano, dal regime, che ha lavorato nel dividit et impera, cioè dando più poteri alle minoranze, marginalizzando invece i sunniti, che sono l'80%, e domani dovremo lavorare per creare una cittadinanza siriana in cui si identificano tutti quanti, che dobbiamo lavorare soprattutto nella riconciliazione tra i siriani, cioè come farà un domani un musulmano a ritornare a convivere con un cristiano, con un alawita, quando li associa a chi l'ha represso, al regime, o quando questo musulmano vede il clero delle chiese d'Oriente schierato completamente con il regime a causa della paura per il futuro che i cristiani hanno, che li fa preferire le dittature a una strada incerta. Ultimamente, anche negli ultimi giorni, si legge di famiglie irachene, siriane, che sono arrivate in Europa cercando un futuro e poi negli ultimi periodi hanno invece voluto tornare indietro. È una cosa che anche tu citi nel libro, no? Questa situazione anche esistenziale dell'esilio e la difficoltà e talvolta anche la voglia di tornare indietro. Hai detto bene che è una situazione esistenziale, perché la guerra non si scappa solo dalla guerra concretamente, fisicamente, ma la guerra a volte si radica dentro l'essere umano profondamente. Anch'io ho conosciuto siriani che sono arrivati, ma avevano la guerra talmente radicata dentro che non c'era una patria sostitutiva, non c'era una stabilità che gli permettesse di continuare la loro vita, che non fossero invece quelle macerie che hanno lasciato. E noi dobbiamo capire queste dinamiche, soprattutto per comprendere che questa gente scappa davvero da qualcosa che i nostri nonni conoscevano molto bene, ma che noi non conosciamo assolutamente. E poi dobbiamo pensare che questa gente che arriva, che scappa da questi contesti, non gli si può dare una coperta e una pagnotta e tutto quanto a posto, ma hanno bisogno di un sostegno psicologico per realizzare quello che è avvenuto. Paradossalmente mi viene da dire, i profughi e i rifugiati che hanno diritto a stare nei nostri paesi sono più difficilmente integrabili, no? Nelle nostre società, hanno bisogno di supporto psicologico, come dicevi, perché appunto non hanno scelto di emigrare, rispetto magari a un migrante economico il quale vuole proprio spostarsi, e quindi ci sono dinamiche anche psicologiche che forse non siamo sempre pronti, non tutti i paesi dell'Europa sono pronti a recepire, e sicuramente bisognerebbe pensarci anche per il futuro, no, della nostra società, per un'integrazione solida, e poi che non si vada poi a creare quelle banlieue, quelle situazioni di sofferenza anche esistenziale che poi portano anche a terrorismo, a situazioni in cui uno cerca un'identità. Hai ricordato benissimo che bisogna per forza lavorare in un'integrazione che sia completa, nel senso che queste persone non possono essere accolte e poi non gli si insegna la lingua, non ci sono strutture che li immettono all'interno della nostra società, ma li lasciano lì in preda a loro stessi. Poi vorrei dire questa cosa, che gli immigrati, questa gente che scatta, in qualche maniera porta in sé, nella sua carne, nelle ferite, una testimonianza profonda del valore della vita e di quella che è invece la guerra. L'Europa si fonda sulla tragedia della Seconda Guerra Mondiale e questa gente ci dovrebbe ricordare che cos'è la Seconda Guerra Mondiale, per che cosa hanno lottato i nostri nonni per garantirci la pace. Quindi, guardandoli negli occhi, dovremmo capire anche noi chi siamo. Una delle prerogative della cucina siriana è sicuramente il fatto di trovarsi di fronte a un popolo estremamente conviviale, cosa che si riflette nel fatto che i pasti si trasformano in qualcosa di più rispetto alla sola necessità di nutrirsi. La gastronomia siriana è influenzata da diversi popoli, ma in particolare dalla Francia. Tra gli antipasti freddi sono molto buoni i mutabal, crema di melanzane, l'hummus, crema di ceci, il mammara, pasticcio di noci e peperoni, il fattouche, insalata con pane tostato, tra quelli caldi il fataye, fagottini di pasta ripieni di carne, formaggio o spinaci, il sauda, fegato stufato in succo di melograno, e l'isanat, cervella e lingua d'agnello. Si prosegue con kebab, spiedini di carne tritata, kafta, carne tritata al forno con patate e pomodori, e il sukaf, spezzatino d'agnello grigliato. Fanno da contorno zucchine ripiene o melanzane in salsa di pomodoro. Il pasto si conclude con i dolci. Fra i più tipici, baklava, pasta sfoglia ripiena di noci, mandorle o pistacchi, e muallabiyeh, budini di riso aromatizzato con acqua di rose e pistacchi. Prima di lasciarvi, vi consiglio, per approfondire la questione siriana, ma anche le conseguenze di questo conflitto nel campo profughi di Za'atari in Giordania, il primo romanzo del portavoce di UNICEF Italia Andrea Iacomini, in libreria dal 14 maggio, il giorno dopo edito da Ponte Sisto. Io ringrazio ancora una volta Shadi Amadi per essere stato con noi questa sera. Grazie. Grazie mille a voi. Grazie anche a Valeria Bernardi per l'assistenza tecnica, soprattutto a tutti voi per l'ascolto. Tornate sabato prossimo a sentire le nostre storie a Indovina chi viene a cena. Io vi do appuntamento a sabato alle 23. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of a